Rilevate anche questo e ricordate, la fine viene subitanea. Entrate in quell'anticamera della nascita dove sono riuniti quegli studiosi e notate i loro volti. Niente, ecco, mi appare di precipitoso o di violento in loro, bensì la quiete protettrice che ben s'addice alle loro mansioni in quella casa, la vigile veglia dei pastori e degli angeli attorno a un presepe in Betlemme di Giudea, ora è molt'anni. Ma come prima della folgore, le nubi serrate tempestose, onuste dell'eccessiva carica d'umidità, in masse rigonfie turgidamente distese, avviluppano cielo e terra in un vasto sopore, incombendo su campi riarsi e buoi sonnolenti e sulla vegetazione disseccata dei cespugli e della verzura, fino a che in un istante uno sprazzo di fulmine non fenda il loro centro e allora con l'eco rimbombante del tuono il temporale rovescia i suoi torrenti, così e non diversa, fu la trasformazione violenta ed istantanea come fu proferito il verbo. Da Burke! S'avventa davanti agli altri sua signoria Stephen, lanciando il grido di guerra, e dietro a lui il codazzo di quei perdigiorno, Galletto, scimpanzé, allibratore, medicone e Bloom, il puntuale, alle calcagna. Con un assalto collettivo a copricapi, bastoni, spadini, panama e foderi, alpenstocks di Zermatt e che altro, un dedalo di gioventù gagliarda, studenti tutti e nobili. L'infermiera Callan colta nel corridoio non può arrestarli, né il sorridente chirurgo che scende le scale con buone nuove d'una placentazione ben terminata, una libbre passa. Gli gridan dietro: «La porta è aperta?» Ah! Escono tutti tumultuosamente, tutti a passo di corsa, gambe bravamente in spalla. Burke, all'angolo di Denzil Lane e Holley Street, è la loro meta ulteriore. Segue Dixon, rampognandoli fieramente, ma tira un moccolo anche lui e avanti. Bloom resta con l'infermiera un attimo per mandare una buona parola alla madre felice e al neonato lassù. Il dottor dieta e il dottor riposo. Non è diverso ora anche l'aspetto di lei. Le lunghe notti di veglia nella casa di Horn sono visibilmente scritte su quel pallore slavato. Ora che tutti se ne sono andati, con l'aiuto di un tocco di felice istinto, mormora dappresso nell'andare: Signora, quando verrà per te la cicogna? L'aria all'esterno è pregna di pluviosa e rorida nebbia, celestiale essenza di vita. Lucente sulla pietra di Dublino, sotto il cielum chiaro stellato. L'aria di Dio, l'aria del Padre universale, l'aria scintillante circumambiente, cedevole. Aspirala in te profondamente. Per il cielo, Theodore Purefoy, hai fatto un buon lavoro senza mende. Ben tu sei, affe di Dio, il più notevole progenitore. Nessuno escluso di questa micragnosa, onninclusiva, farraginosissima cronaca. Sorprendente! Era in lei una possibilità preformata, da Dio foggiata, da Dio donata, che tu hai fatto fruttificare con modica spesa del tuo lavoro virile. Avvinghiati a lei, fa il tuo servizio, adoprati, travaglia come un cane mastino. E dottoroni e malthusiasti si impicchino. Tu sei il papalino di tutti loro, Theodore. Ti pieghi forse sotto il tuo fardello, sopraffannato da conti di macellaio a casa e da lingotti, in vero non tuoi, al banco, sulla testa. Per ogni nuovo genito raccoglierai il tuo staio di frumento maturo. Vedi, il tuo vello è fradicio. Invidi tu il buon Taddeo con la sua veneranda? Una gazza bacchettona e un cagnaccio cisposo son tutta la loro progenie. Puà, dico io, è un mulo, un gasteropodo morto senza vim o stamina che non vale un kreutzer bucato. Copulazione senza popolazione. No, dico io, Il massacro e rodeo degli innocenti sarebbe più appropriata definizione. Legumi, invero, e sterile coabitazione. Propinale bistecche rosse, crude, sanguinolente. È ella un canuto pandemonio di mali, ghiandole ingrossate, orecchioni, tonsilliti, duroni, febbre da fieno, piaghe da decubito, empetigine, rene mobile, gozzo, verruche, crisi epatiche, calcoli, piedi dolci, vene varicose. Tregua alle lamentazioni, ai trigesimi e alle geremiadi e a tutta questa musica funebre congenitale. 20 anni di tutto questo, giammai non li rimpiangere. Per te non è stato come per quei molti che vogliono e vorrebbero e aspettano e mai non fanno. Tu hai visto la tua America, il compito della tua vita e ti sei avventato a coprirla. Come un bisonte traspontino. Come dice Zarathustra? Deine cutrius balmelkes du. Nunt trinkst du di süsse Milch des Euters. E vedi, se fonde per te in gran copia. Bevine, uomo, una mammellata. Latte materno, purfoi, il latte dell'umana specie. Latte anche di quelle stelle in boccio. Sopra di noi rutilanti nel fine vapore acqueo, Poncino al latte, come ne tracanneranno quei libertini nella loro gargottuccia, latte di follia, latte mielato della terra di Canaan. Il capezzolo della tua vacca era duro, e con ciò il suo latte è pur caldo e dolce e nutriente. Non è birra risciacquata questo, ma denso, ricco latte di burro. Alla salute di lei, vecchio patriarca, poppa, per deam partulam et per tundam nunc est bibendum. E via tutti a braccetto a far caciara, ululando giù per la strada. Bona fides, dov'hai dormi iernot? Timoteo dalla brocca scassata. Alla diavola, ombrelli o stivali di gomma in famiglia? Dove demonio è andato quel macellatore? E il rigandugliolo? Disbiage, me niente sapere. E là, Dix, avanti a briglia sciolta. Dov'è Punch? Tutto sereno. Gesù, guarda il pastore sbronzo che sorte dall'ospitale. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius. Mi regala un soldo. I ragazzi di Denzil Lane. Andate al diavolo. Filare. Benone, Isacco, cacciali a calcioni, via dalla ribalta fottuta. Vieni con noi, signorino. Non il minimo disturbo. Essele molto buono, signore. Essele tutti stessa banda. En avant, mes enfants. Pezzo numero uno, fuoco. Da Burke, da Burke. E di lì avanzarono 5 parasanghe. Fanteria a cavallo di slatteri. Dov'è quel fottuto scribacchino? Parroco Steve, credo d'apostata. No, no, Mulligan. Voi a poppa, spingere avanti. Tieni d'occhio l'orologio. Ora di buttar fuori la gente. Mally, che ci paghi? Ma mer, ma marie. Beatitudini britanniche. Rataplan, digiti, bum bum. Vince chi è per il sì. Da stamparsi e rilegarsi alla Druidum Press, a cura di 2 femmine artificiose. Copertina di pelle verde piscio. L'ultimo grido nel campo delle tinte artistiche. Più bel libro uscito in Irlanda ai tempi miei. Silenzium! Dai una punzonata. Tenti! Marciare fino allo spaccio più vicino e ivi requisire i depositi d'alcolici. Marsh! Parapam, parapam, petto in fuori, sono arrivati i colabicchieri. Birra, bue, baratti, bibbie, bulldogs, battelli da battaglia, buggerate e badesse. Sia pure sul patibolo. Bovi birrosi trapestano bibbie. Quando per l'Irlanda bella, trapestando i trapestoni. Rintronamento. Tenete il passo fottuto? Si morrà. La bettola delle badesse. Alt! In panna. Rugby, mischia, Niente zampate! Ai, le mie pette! Fatto male? Desolatissimo! Domanda: chi è il fesso che paga? Orgoglioso possessore di tutto, porco mondo! Passo, manco una coppia. Alle corde. Non avere svanziche. Manco un Paolo la settimana passata. E tu? Idromele dei nostri avi per l'Übermensch. Iden, come sopra. Cinque numeri uno. Lei, signore? Gazzosina. Ammazzalo, la pozione del fiaccheraio. Ti metto il fuoco addosso. Ricarica l'oriolo. Fermato secco una volta per tutte quando il vecchio. Assenzio per me, capito? Caramba! Prendere uno zabaione e un uovo all'ostrica. Nemico? La mia patacca è andata alla montagna della misericordia. Meno 10. Obbligatissimo, ma di nulla. Trauma pettorale, no, Dix? Post fact. Morso da ape quando sta fa dormento in suo giardinetto. Abita vicino al mater. E nel numero dei più. La conosci la meta? Sì, come no. Ne ha di ben di Dio addosso. Vista in déshabillé. Si spoglia che è un piacere. Amore, amorellina, non è una vacca magra, vai. Su, tira la tendina. Due ardilans. Qui, lo stesso. Fatevi prescia. Se batti una culata, non perder tempo a rialzarti. 5, 7, 9. Bene, ha un bel paio di pipponi, mica scherzo. E che davanzale accogliente. E che prosciutti. Vedere per credere. I tuoi occhi famelici e il collo infarinato m'hanno rubato il coro a appiccicona. Signore, patata contro i reumi. Balle, se permette, però i polloi. Mi temo che tu essere scemo. Beh, dottore, tornato di Lapponia. Vostra corposità acutizza, ok? E le pelle rossa e i belli rossini, come stanno? Ce n'è una che deve figliare? Mani in alto e sgravati. Parola d'ordine. Che pelo. Nostre la morte bianca e la nascita rubizza. Ai, sputati nell'occhio, padrone. Telegramma del Mimo. Plagiato da Meredith. Gesuficato, orchideizzato, policimico gesuita. La zietta mia scrive a papà, Kinch. Quel cattivone di Steven mi svia quel bonaccione di Malachi. Urrà! Chiappa il pallone, figlietto. Passare lo spumante. Ecco, gioco degli altipiani e la birra che ci vuole. Che a lungo possa fumare il tuo tetto e bollire la tua marmitta. Il mio liquido. Merci. Alla nostra. Che te ne pare? Fregato sotto gamba. Non mi macchiare le brache nuove. Passateci un pizzico di pepe, voi laggiù. Acchiappalo! Il comino è in cammino. Capire? Scoppi di tristezza. Ogni malandrino ha la sua vaga. Venere pandemos. Le petite femmes. Ragazzaccia sfrontata dalle parti di Mullingar. Diglielo che chiedevo di lei. Tener Sara per il pancino. Sulla strada di Malahide. Me? Se colei che m'ha sedotto almeno il nome m'avesse detto. Cosa vuoi avere per 9 pence? Macri, macruiskin. Molly, la porcellina, per ballarci la furlana. E forza tutti insieme. Ex? Aspetti, capo. Deciduamente. Ci puoi giocare i tuoi stivali. Rimasto di sasso a veder che palanche non ne piovevano. Hai capisciato? Lui c'è alla grana ad lib. Ho visto quasi 3 sterline che ci aveva mica molto fa e diceva che erano sue di lui. Noi venuti qua su invito tuo, capito? Tocca a te, fuori le svanziche. Due lenzuoli e una piotta. Ha imparato il trucco da quei filoni francesi. Qui non attacca adesso. Bambino, scusale tanto. È il negretto più dritto di queste parti. Quant'è vero Dio, Carletto? Che siamo scemi? Ma che siamo proprio tanto scemi? Au revoir, monsieur. Thank you. Certo, si capisce. Che dice? All'osteria. Sbronzo. Lo vedo, signore. Bantam da 2 giorni all'asciutto. Non beve altro che chiaretto. Chi ci crede? Dagli un'occhiata, dai. Per mio, sono rincoglionito. Eppure dal barbiere è stato. Troppo pieno per parlare. Con un tipo frigido delle ferrovie. Come hai fatto? Opera che gli piace? Semiramide. Semiramide. Polizia! Un po' di H2O per un signore che è svenuto. Guarda i fiori di Bantam, Gesù mio. Si mette a strillare. Bella irlandesina, bella mia. Oh, piantala. Chiudigli il forno fottuto con una zampata. Aveva il vincente oggi finché non gliene ho suggerito uno sicuro io. Il maligno si sgrinfi la grinfia di Steven. E mi ha consigliato quella ronza maledetta. Si incamera il fattorino del telegrafo col dispaccio del campo di corse del grosso bus al deposito. Gli ha allentato qualcosa e lui ha soffiato tutto. Cavalla in forma a puntare forte. Una guinea contro un bicchiere di vino di Ribes. Dillo a chi se ne intende. Vangelo. Intercettazione criminale? Io dico di sì. Sicurissimo. Schiaffarlo in gattabuia se il guisturino fiuta la ragia. La scommessa di Madden su Madden è scommessa da matto. Oh, lussuria, nostro rifugio, nostra forza. Taglio la corda. Devi proprio andare. Da mammina. Attento. Qualcuno nasconde i miei rossori. Sto fresco se mi incoccia. Canda pagliaio il nostro Bantam. Arrivoar, mon vieux. Non dimenticare i fiorellini per lei. Confidati. Chi te l'ha data quella puledra? Da amico ad amico. Jenock, di John Thomas la consorte. Niente trucchi, il vecchio Leo. Lo giuro, quant'è vero è Dio, che io caschi morto se ho avuto. È un bel fratacchione. Perché tu non dire a me? Bene. Dico io, se non è porco ciudeo, bene, allora io chiappo la miscia miscinna. Per zio, nostro signore, amen. Presenti una mozione? Steve, figlio mio, eccoti sul cavallo d'Orlando. C'è da bere ancora, miseria cane. L'immensamente splendifero festeggiante permetterà a un festeggiato di estrema povertà ed una sete grandimensionale e perniciosa di portar termine a una dispendiosa libagione inaugurata? Facci rifiatare. Oste, oste, ce n'hai del buon vino, stabù. Namo, compà, faccia assaggiare un goccetto. Taglia e ritorna. Bravo, Bonifacio, assenzio per tutti. Nos omnes biberimus viridum toxicum, diabolus capiat posteriore nostria. Ora di chiudere, signori. Dare di quel buono a quel paino di Bloom. Sento parlare di cipolle. Blu? Quello degli annunci. Il papalino di quella della fotografia, per tutto quel che c'è di bello. Suona pianino, compagno. Telare. Bonsoir la compagnie. E i laccioli del demone sifilide. Dov'è il capro? E nambi ambi. Squagliati? Ci è andato lo sgambetto. Ah, beh, andatevene per la vostra strada. Scacco matto. Il re contro la torre. Bono cristiano, aiutare me, povero giovane amico, breso chiave bungalò. Dare bosto dove bosare, bovera desta, 2 noddi. Cribbio, son quasi partito. Che vo' rimanere zoppo se questa non è la più migliorissima, bellissima, sbronzissima che ho avuto. Item, cameriere, 2 pasterelle per questo piccolino. Sangue titio e papà, niente, neanche un boccone di formaggio? All'inferno la sifilide, con lei tutti quegli altri spiriti autorizzati. È ora, signori! Chi va errando per il mondo, alla salute di tutti, alla vostra! Perdinci, che prende quel tipo col Macintosh? Sbrendolone. Vendi nelle vestimenta. Perdinci bacco. Ma cosa ha preso? Manzo sopraffino. Bovril, perdiana. Ne ha un bisogno cane. Conosceresti mai calzette corte? Lo strambo straccione del Richmond? E come no? Credeva d'avere un deposito di piombo nel pene. Pazzia simulata. Lo chiamiamo strozzapane. E questo, signor mio, era un tempo un facoltoso cittadino. L'uomo tutto a brandelli che prese in moglie la giovinetta sola soletta. Ha salpato l'ancora, lei. Qui si contempla l'amore abbandonato. Macintosh, l'errabondo del Grand Canyon, ha letto e rimboccato. Ora regolamentare. Niente per i piedipiatti. Pardon? Visto oggi a un runefale, amico tuo che ha preso l'ultima paga. Pietà di Dio, poveri marmocchi. Non me lo dire, Pold mio. Tu, pianto tanti lacrimoni glossi glossi, perché amicuccio padre portato via in grande sacco nero. Ma sapat essere buono padrone per poveri negri. Mai visto simile da quando son nato. Tiam, tiam, ma è cosa molto triste questa, veramente, sì. Accidenti, accelerare su una pendenza di 7 gradi. Gli assi delle ruote sono caput. 2 contro 1 che Jenazzi gli fa mangiare la polvere. Musi gialli? Tiro parabolico, trac, colato a picco a mezzo bollettino speciale. Peggio per lui, dice, neppure un ruscio. Fuori tutti, si chiude, ce n'è 11. Levatevi di torno. Avanti, traballanti trincatori. Sera, sera. Che Allah l'Eccellentissimo l'anima vostra stanotte sempre mai potentissimamente preservi. Un momento d'attenzione! Non siamo mica tanto scemi. La polizia di Leith ci lascia in libertà. La polizia di Pish! Attenti ai falchi con quello che rigetta Allah l'anima sua. Indisposto nella regione. Abominabile. Yucca. Sera. Mona, amore mio, yuk, Mona, mio solo amor, uk, occhio, chiudi il forno, pepe, fuoco, parte, pompieri, virar di bordo, da Mount Street, scorciatoia, pe, alla lì, niente venire, te, correre, telare, filare, pe. Lynch! Ehi! Vieni a bordo con me. Per di qua, Denzil Lane. Per puttaneto si cambia. Noi due, lei disse, andremo nel casino dove sta Maria la scura. Ottimo! Quando vuoi. Letabuntur in cubilibus suis. Anche voi venite, no? Sottovoce. Chi è quel bischero tutto nero? Sss! Ha peccato contro la luce ed or già è vicino il giorno che egli verrà a giudicare il mondo col fuoco. Pe! Ut implerentur scripture. Intonate una ballata. Poi disse Dick, studente in medicina, allo studente in medicina Davy. Cribbio, chi è questo stronzo di predicatore giallo a Marion Hall? Elia viene. Lavati nel sangue dell'agnello. Forza, voi, esseri bevitori di vino, trincatori di gin, tracannatori d'alcol. Forza, voi, bleffisti da cani, dal collo taurino, dalla fronte bovina, dal muso porcino, dal cervello di gallina. Pe! dall'occhio volpino, tutti i falsi allarmi e bagagli in eccedenza. Forza, quintessenza triplicata ad ogni infamia. Alexander J. Christ Dowie, così mi chiamo, che ha catapultato alla gloria eterna una buona metà del pianeta dalla baia di San Francisco a Vladivostok. La divinità mica è un baraccone da quattro soldi. Ve lo dico io, che ha le carte in regola e che è un affare d'oro. È quanto di meglio si sia visto. E non ve lo scordate. Gridate, la salvezza in Cristo Re. Ti devi alzare presto la mattina, peccatore mio, se vuoi fregare Dio onnipotente. Pe! Ma che? Ha uno sciroppo per la tosse, che è una cannonata, e lo serba in tasca per te, amico mio. E tu, provalo.